basta niente per creare un prepotente. Tanti soldi e successo tra la gente, e la paura di non possedere più niente. Questo basta a infettare la sua mente. Cellulare, perché è più facile non affrontare. Tu